La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cattolica, Studio 1 di Radio Talpa, un caro saluto a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, un abbraccio da Maurizio, benvenuti. Anche oggi siamo in studio per dare voce a Raffaella Milandri. Siamo giunti con lei al terzo appuntamento di Nativi Americani, ieri e oggi. Appuntamento che va in onda ogni venerdì a partire dalle ore 17:30. Lo sapete benissimo, negli altri due incontri abbiamo parlato di quel magico film di Martin Scorsese, The Killers of the Flower Moon, e nel secondo la mitica battaglia del Little Bighorn e di quel personaggio di nome Custer. Abbiamo con noi dunque Raffaella Milandri, giornalista, antropologa, scrittrice, fotografa e soprattutto attivista per i diritti umani. Ciao Raffaella, ben arrivata nei nostri studi e soprattutto di cosa parliamo oggi? Salve Maurizio, salve a tutti i radioascoltatori di Radio Talpa. Oggi di che cosa parliamo? Allora c'è questo grande clamore, insomma, che è stato sollevato per quanto riguarda il discorso del cinema e per quanto riguarda il discorso degli Oscar. Abbiamo parlato un paio di puntate fa, abbiamo parlato della favolosa Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon e adesso è senz'altro il turno di parlare di un attore che ci ha fatto sognare con dei film fantastici come appunto Balla con i lupi, come L'ultimo dei Moicani, più recentemente con Styles. Parliamo oggi di Wes Study. E a proposito di questo attore, cosa ci racconti, Raffaella? Allora, ci ricolleghiamo agli Oscar per dire che nel 2019 Wes Study ha ricevuto appunto una statuetta onoraria dell'Oscar alla carriera. E che è stato insomma un grande momento per questo attore, che effettivamente è proprio un po' un simbolo del cinema e degli attori nativi americani, che come sappiamo già dall'inizio del cinema, quindi dagli anni 20, insomma, proponeva innanzitutto una immagine dei nativi molto... Ecco, erano quelli cattivi, John Wayne li combatteva aspramente poi negli anni 50 e dintorni, e quindi insomma diciamo che questa immagine dei nativi americani è stata un po' un'ingiustizia sopra le ingiustizie già ricevute, mentre invece, ecco, Wes Study è stato un po' il primo attore a umanizzare, se vogliamo, uno dei primi attori a umanizzare, a approfondire l'immagine del nativo americano, dell'indiano, insomma, nel cinema. Possiamo dire innanzitutto che Wes Study è un Cherokee, quindi a tutti gli effetti, perché poi ci sono molti attori dove si legge, si dice che siano nativi americani, che abbiano antenati nativi americani, che abbiano una parte di discendenza nativa americana, ma insomma Wes Study lo è a tutti gli effetti. È un personaggio un po' particolare, insomma, nel senso che innanzitutto ha una storia, una gioventù un po' diversa, in cui ancora non pensava di essere attore. E ritorniamo appunto alla sua esperienza cinematografica, e appunto Wes Study ha commosso il pubblico con queste interpretazioni indimenticabili, lo ripetiamo: Balla coi lupi, L'ultimo dei Moicani, Geronimo, It, ma anche in Avatar e poi in Hostiles, facendo proprio un passo in avanti nel successo dei nativi americani in ruoli non tradizionali come quelli appunto dei nativi cattivi, quelli che combattevano contro l'esercito americano, contro le giubbe rosse canadesi. Quindi, allora, dicevamo, innanzitutto lui, come molti nativi americani, insomma, è stato è un veterano del Vietnam. Lui era il figlio maggiore del proprietario di un ranch, ovviamente nativo, e lui è nato nel 47, nel 1947, in Oklahoma. E fino ai 5 anni ha parlato solo la sua lingua Cherokee. Poi dopo è stato iscritto alle boarding schools, di cui appunto abbiamo parlato, queste scuole residenziali indiane molto severe, di cui abbiamo parlato comunque nella precedente edizione. Però ecco, West Study è sempre rimasto attaccato alle tradizioni e non ha mai dimenticato la sua lingua. E, dicevamo, si è arruolato nell'esercito degli Stati Uniti e quindi proprio perché si sentiva un po' ribollire il sangue quando effettivamente sentiva queste storie di guerra, un po' l'animo del guerriero, no? E quindi ha combattuto nel delta del Mekong, praticamente vivendo delle scene che poi in qualche maniera ha vissuto nel cinema, se vogliamo, delle scene di guerra, delle scene di sangue. E riuscì comunque a sopravvivere perché la sua compagnia, fu bloccata, quasi uccisa, insomma, nel delta del Mekong e fu congedato con onore. E a quel punto si impegnò seriamente nella politica a favore dei nativi americani e si unì all'American Indian Movement, che è un famosissimo, diciamo, forse l'associazione più famosa e quella più combattiva che negli anni 70 ha veramente infiammato gli animi e ha portato a dei successi per quanto riguarda i diritti dei nativi americani. E ha partecipato nel 1973 all'occupazione di Wounded Knee in Sud Dakota ed è stato addirittura arrestato. Quindi pensate che vita avventurosa, insomma, che ha avuto prima di diventare attore. Ah certo, sappiamo cosa vuol dire portarsi dietro l'esperienza del Vietnam. Ma come è diventato attore e parlaci così degli inizi della sua carriera? Allora, West Study dice che dopo il Vietnam, che comunque è stata un'esperienza molto dura e che lo ha segnato, dice che lui ha iniziato a purificare i cattivi sentimenti dentro di lui e quindi è diventato un attivista perché voleva proprio diventare una parte vitale del meccanismo, del sistema che riguardava la sua gente. Quindi è stato un attivista, è tuttora comunque un attivista, insomma, per il suo popolo. E siccome in quel periodo, diciamo, quindi come veterano, il timore era proprio quello di arrivare un po' all'autodistruzione, come è successo, se ricordate, altri vari film, insomma, americani che raccontano di questa esperienza, del dopo Vietnam, insomma, diciamo che è un'esperienza durissima. E quindi West Study riuscì a incanalare questi sentimenti verso un cambiamento positivo. E ha iniziato poi a lavorare per la nazione Cherokee e ha contribuito a fondare, anzi a rifondare, il Cherokee Phoenix, un giornale, è stato il primo giornale nativo proprio nell'Ottocento, ma insomma diciamo ha contribuito proprio a rifondarlo. E ha insegnato la lingua Cherokee nella comunità e a quel punto ha anche addestrato i cavalli, pensate, quindi ha proprio fatto un po' di tutto. In quel periodo cominciò, quindi parliamo dell'inizio degli anni Ottanta, iniziò a recitare e a studiare recitazione, insomma, e trovò che questo riusciva a fargli sfogare no, queste energie negative. E lui dice, anche oggi dice, quando si è in grado di liberare questi sentimenti in una forma di recitazione è più sano che lasciarli dentro. Ha calcato per la prima volta il palcoscenico nel 1984 con Alce Nero Parla e ha iniziato subito ad avere dei riconoscimenti e dei successi. Poi ha fatto appunto interpretato diversi ruoli, ma nel 1990 è lì che ha interpretato un guerriero pony memorabile in Balla coi lupi e dopodiché ha ottenuto il ruolo di Magua nell'Ultimo dei Mocani, che è stato diciamo proprio la consacrazione di West Study e quindi ecco lui ha iniziato proprio attingendo a quello che era stato il combattimento, la rabbia, il senso di isolamento del Vietnam e comunque anche quel senso di isolamento anche come nativo americano nella società statunitense e proprio per le sue avvincenti interpretazioni. Visto che stiamo parlando di uno spirito inquieto, oltre al cinema, si dedica anche ad altre cose, altre attività? Ma se è stato poliedrico prima del cinema, lo è anche, lo è stato anche dopo e lo è anche attora, attualmente. Quindi il suo talento artistico va oltre la recitazione. Lui è un abile intagliatore di pietra, è un musicista esperto, quindi suona il basso e la chitarra e dirige la band Firecat of Discord con sua moglie, la cantante Maura Du, eseguendo musica originale. A questo proposito, Maurizio, ti dico, bisogna andare a trovare qualche pezzo della sua band. Il primo CD è stato pubblicato nel 1998 di questa band. E poi, ecco, per finire, diciamo, ha scritto anche due libri per bambini. Per il Centro di Educazione Culturale Cherokee. Rimane tuttora comunque un attivista appassionato e si dedica comunque sempre al discorso della lingua, della divulgazione e della conservazione della lingua Cherokee ed è attivo proprio nell'incoraggiare anche registi e attori nativi americani. Attualmente vive a Santa Fe, in New Mexico, insieme a Maura e hanno un figlio che si chiama Colan ed ha anche altri due figli, Daniel e Lea, che sono stati avuti da un precedente matrimonio. Insomma, una vita ricchissima che ci trasmette in tutte le sue interpretazioni. E così oggi, grazie a Raffaella, abbiamo potuto approfondire il discorso su questo grande attore nativo e, a mio avviso, se avete visto i suoi film, sarete sicuramente d'accordo sul fatto che si tratta davvero di un grande personaggio. Termina qui la terza puntata di Nativi Americani ieri ed oggi. Vi ricordo che venerdì prossimo andrà in onda la replica di questa puntata e subito dopo troverete il podcast sul sito ufficiale di Radio Talpa, www.radiotalpa.it, sui social come Facebook e Telegram e naturalmente anche sulle piattaforme come Spotify e Mixcloud. Ringraziamo Raffaella Milandri, che ritroveremo dunque fra 2 settimane, e un grazie di cuore naturalmente a tutti voi che ci seguite puntualmente qui su Radio Talpa. Da Maurizio Benvenuti e Raffaella Milandri, un abbraccio sincero a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.